Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Il 23 maggio scorso a Milano si è tenuta la premiazione del concorso Forest Skill, promosso dalla Fondazione Italiana Accenture e dalla Fondazione Collegio delle Università Milanesi. Obiettivo di questo concorso: stimolare idee volte a generare nuove opportunità di lavoro per i giovani attraverso l'uso intelligente del patrimonio boschivo italiano. Due le idee premiate, selezionate su un totale di 85 progetti, e a queste due idee sono andati, oltre al riconoscimento, 30.000 euro per l'avviamento perlomeno dei progetti. Allora, progetto numero 1, la multifunzionalità della foresta integrata. Siamo in Liguria, in provincia di La Spezia, e parliamo di recuperare 20 ettari di terre che comprendono boschi misti, foreste miste, ripari, aree agricole ormai sopraffatte dal bosco, aree di interesse naturalistico, e qui l'idea è di mettere appunto, diciamo così, una macchina operativa, un sistema appunto integrato che consenta di valorizzare la vocazione delle diverse zone di interesse. Che ne so, se c'è un castagneto si raccoglieranno le castagne, e l'obiettivo è andare infine a creare anche delle opportunità di lavoro mirate naturalmente. Ma assai più da vicino ci interessa l'altro progetto vincitore, il progetto Felce. Ne parliamo con Stefano Pontigia, che di professione è educatore e anche antropologo ed è proprio capo team del progetto Felce. Buonasera Pontigia. Buonasera a voi. Allora, intanto complimenti per il riconoscimento. Dunque, grazie. Il progetto Felce punta, adesso lo dico in pochissime parole, a realizzare delle foreste urbane che abbiano anche la funzione di carbon sink. Carbon sink letteralmente vuol dire pozzo di carbonio, quindi lo scopo di assorbire CO2 dall'atmosfera, compensando così emissioni di CO2 dovute ad altre attività umane. Allora, partiamo da questo concetto, quello di foresta urbana. Che cosa è una foresta urbana? In che cosa è diversa da un parco, per esempio, di quelli comuni? Sì, la differenza fondamentale sta nel fatto che il carbon sink è un bosco gestito, è stato pensato, viene pensato e progettato con una funzione protettiva e non produttiva, con funzione protettiva proprio perché deve avere lo scopo di abbattere la produzione di CO2, o quantomeno di assorbire la CO2 che viene prodotta. Ha dei vincoli di durata, perché essendo prodotta secondo dei criteri scientifici che aderiscono al protocollo di Kyoto, viene fondamentalmente protetta per legge per un periodo più lungo, e viene anche continuamente manutenuta per evitare la morte delle piante che vengono piantate al loro interno, piante che tra l'altro vengono impiantate utilizzando specie locali da una parte, autoctone, e anche secondo determinati modelli anche di densità forestale. E questa è la differenza fondamentale rispetto a un bosco urbano di altra natura, insomma. D'accordo. Ecco, ma quando uno entra in una di queste foreste urbane, che cosa vede? Vede un bosco o c'è qualcosa di diverso? Può sembrare una domanda banale, ma immagino che qualcuno se lo stia chiedendo. Ma vede un bosco, vede una foresta. L'opera di realizzazione di un carbon sink consiste proprio nella forestazione di una parte di territorio in zona urbana solitamente, che viene appunto, come abbiamo detto prima, piantumata secondo determinati criteri, perché deve abbattere il più possibile la CO2 di certe attività, esatto, il più possibile di attività sia pubbliche sia anche magari di interventi che un comune deve fare, e che diventa una risorsa anche per la città, per l'ambiente locale. Ecco, quali sono appunto i benefici? Quali sono i benefici? Intanto l'assorbimento di CO2, questo è chiaro. Sì, esatto. Questa assolutamente la prima cosa che abbiamo come beneficio è che viene assorbita una determinata quantità di CO2. Dopodiché sicuramente un'azione del genere ha un impatto positivo sia a livello di salvaguardia del suolo, impedendo quindi che ulteriori parti della città vengano consumate, vengano urbanizzate, e oltre a quello avviene anche si può favorire la difesa climatica dell'ambiente, evitando quindi, contrastando il cambiamento climatico. Per esempio anche contrastando l'effetto isola di calore, no? Che è quella cappa che si determina sulle città, dove essendo tutto asfalto e cemento il calore viene assorbito e innalza la temperatura. Ci sono città nel mondo in cui questo effetto è di 10 gradi, tanto per dare un'idea, che è una cosa mostruosa. Ecco, ci sono però, faceva già riferimento prima, delle technicalities da rispettare molto bene, perché questa riforestazione avviene secondo dei criteri che sono stabiliti dal protocollo di Kyoto fondamentalmente, giusto? Esattamente, esattamente, e sono certificati da un'agenzia internazionale. Tutto il ciclo di calcolo della CO2 che deve essere assorbita a partire dalla, come dire, dall'attività che si vuole compensare, il numero e il tipo di piante, la loro densità e anche tutta la manutenzione viene fatta secondo dei parametri tecnici che sono stati certificati da RINA, che è uno degli enti che opera appunto nel campo della certificazione ambientale per conto del protocollo di Kyoto. La nostra attività quindi diventa innovativa proprio perché permette di applicare concretamente secondo una procedura standard il protocollo di Kyoto, che prevede questo tipo di opere per poter abbattere la CO2 e generare anche dei crediti di carbonio. E infatti questo è molto importante perché al di là, come dire, dell'aspetto ambientale, c'è un aspetto economico che può essere fondamentale per rendere anche replicabili operazioni di questo genere. Quindi come funziona questa storia dei crediti di carbonio? Funziona che fondamentalmente in base alla quantità di CO2 che viene assorbita dal nostro bosco in questione, si producono, si generano dei crediti di carbonio certificati appunto da questi enti internazionali, tra cui per esempio RINA. La nostra associazione ha poi la possibilità di poter vendere questi crediti di carbonio alle aziende, per esempio ai privati, e questo può essere molto positivo per esempio per poter applicare delle politiche di green marketing. Certo. E poi probabilmente questa è una delle modalità con cui un'operazione di questo genere può, come dire, raccogliere delle risorse per stare in piedi, perché poi molte di queste iniziative hanno il problema che si riescono a far partire, ma poi vengono abbandonate nel tempo, vengono lasciate a se stesse perché mancano anche risorse di carattere economico. Ecco, oltre a questi titoli a cui si ha diritto per l'assorbimento di CO2, voi come pensate di valorizzare queste aree? Avete in mente delle attività? Lei fa l'educatore. Sì, noi abbiamo sicuramente delle attività. La nostra associazione Rete Clima, oltre ad avere l'intenzione di realizzare questi progetti, è il primo che applicheremo, è proprio questo di Giussano, e si occupa anche di altro. Nell'ottica della sostenibilità noi vogliamo anche proporre sempre delle iniziative di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilità, che possono trovare proprio nelle foreste compensative che realizziamo alcuni dei luoghi privilegiati per poter compiere appunto questa attività. E oltre a quello abbiamo anche già fatto partire dei progetti di calcolo dell'impronta ecologica per singole attività produttive già nella nostra zona. Quindi altre due attività che, come dire, possono permettere di finanziare anche l'intero progetto di forestazione. Va bene, grazie allora Pontigia, in bocca al lupo per il lavoro che adesso entrerà nella fase operativa, immagino. Sì, dopo l'estate si parte. Va bene, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.